Siamo all'appuntamento con Visionari, con un po' di anticipo, visto che qui il giornale radio non è andato in onda, abbiamo tanti ospiti. La scaletta di quest'oggi, per quanto riguarda il cinema, come ogni settimana dalle 14 alle 15, potete trovare sul sito internet della radio, alla voce trasmissioni. Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 19 settembre, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata precedente e quelle del 2013 e del 2012. Diamo inizio ai collegamenti, oggi parleremo anche di diversi film italiani in uscita nelle sale quest'oggi. In collegamento con Annabella Gioia, curatrice della rassegna Cinema, Storia e la Resistenza, alla Casa della Memoria della Storia qui a Roma dal 19 al 21 settembre, quindi a partire da oggi. Annabella, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera, grazie. Allora, mi sembra un'iniziativa lodevole e importante, raccontacela un po'. Ma guarda, è un'iniziativa di 3 giorni, noi ogni anno facciamo una rassegna di questo genere, cinema, storia e che associa documentari e film di fiction. E adesso la facciamo dedicata alla Resistenza, non poteva essere diversamente perché siamo al 70° anniversario della Resistenza. E noi abbiamo già iniziato varie proiezioni. Questa iniziativa associa, come dicevo, un documentario e un film di fiction. Inizia questa sera con il documentario Via Tasso di Luigi Di Gianni del 1960 e il film associato a questo è Tutti a casa di Luigi Comencini, anche questo del 1960. Con Alberto Sordi. Vorrei far notare che sono tutti e due del 60. Sì, sì. Il 60 è una, come dire, una data importante per la nostra storia, perché come sapete nel 60 ci sono state queste rivolte, diciamo proteste popolari per impedire il congresso dell'MSI a Genova, che sì, era città medaglia d'oro della Resistenza. La protesta popolare si era estesa in altre città, Torino, Roma, Porta San Paolo, Reggio Emilia, dove come sapete ci sono stati 5 vittime, altre in Sicilia, e in prima fila c'erano i giovani, operai e studenti che riscoprivano i valori dell'antifascismo. Sì. E il congresso venne revocato, il governo Tamburoni si dovette dimettere e questi fatti segnarono una svolta per la memoria, per la riscoperta dei principi della Resistenza, una memoria che era stata rimossa durante gli anni del centrismo e dei governi democristiani. Quindi il film di Comencini è proprio ambientato, appunto, è proprio datato 1960, quando in Italia si ricomincia a parlare di Resistenza. Sì. Il titolo Tutti a casa è diventato, come sapete, sinonimo, simbolo, diciamo, di quello stato di confusione, di disfattismo, di anarchia che ha caratterizzato il nostro paese dopo l'armistizio dell'8 settembre, no? Quando sì. È stato, il paese è stato lasciato senza ordini da parte delle autorità civili e militari. E quindi c'è qui uno straordinario Alberto Sordi che interpreta molto bene questa figura di militare in fuga dopo lo scioglimento della sua truppa, che intraprende un viaggio dal nord a sud per tornare a casa, no? Sì. E c'è questa battuta molto significativa di Alberto Sordi che dopo la diffusione dell'armistizio dell'8 settembre, il famoso comunicato del maresciallo Badoglio, in cui l'Italia si ritira dall'alleanza con la Germania, e lui è inconsapevole in giro con la sua truppa e quindi non sa bene, non sa cosa è successo, no? E quando vede che invece i tedeschi sparano contro la postazione italiana, contro di lui, lui si affretta, trova un telefono e chiama il suo superiore e dice: colonnello, accade una cosa incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. Quindi è una frase che fa naturalmente subito sorridere, ma che indica molto bene lo stato di confusione dell'Italia, in cui l'Italia si trovava allora. Ecco. Senti Annabella, ci hai detto un film di finzione, un documentario associati e le giornate, si tratta di tre giornate, da che ora cominciano e a che ora terminano? Allora, cominciano questa sera, 19 settembre, alle ore 20:30, e quindi andrà avanti tra il documentario e il film è un paio d'ore, ci sarà di spettacolo. Poi domani sera, venerdì 20, stesso orario, dove c'è la proiezione di Un popolo per la libertà, il documentario di Sebastiano Messina, un documentario che è dedicato alla resistenza in Italia e ricostruisce attraverso materiali d'archivio sia il fascismo che poi il conflitto mondiale e l'occupazione. E poi a seguire domani sera il film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, film del 62, è una, come sapete, una narrazione commovente delle giornate del settembre 43. Tra l'altro uno dei film che si occupa della resistenza un po' più misconosciuti, nonostante la regia di Nanni Loi, sono poche le volte in cui viene riproposto in televisione. Sì, anche questo faccio notare del 62, no? Il discorso che facevo prima sul 60. Sì, viene poco riproposto e è interessante perché è l'unica città, Napoli, che si è liberata attraverso l'insurrezione popolare, no? E quindi una battaglia improvvisata, no? E Nanni Loi ricostruisce molto bene questo clima, no? Questa forza popolare che è riuscita a liberare la città. E poi la rassegna si concluderà sabato 21 settembre, ore 20:30, con due filmati. Il primo è il documentario Senza tregua di Marco Pozzi. L'ultima serata sono documentari più recenti, questo qui è del 2003 ed è la storia di due Giovanni e Nori, marito e moglie, che hanno vissuto la loro storia ma che erano nei GAP, quindi è una straordinaria esperienza di vita vissuta tra l'impegno politico e i sentimenti. E poi c'è un film del 2009, un bellissimo film di Giorgio Diritti, L'uomo che verrà. Questo è, come sapete, la storia della guerra raccontata da parte dei contadini di Montesole nell'Appennino emiliano, e in realtà è la storia della strage di Marzabotto, vista però con gli occhi di una bambina, che è il pretesto narrativo del film. Annabella, volevo allora, per chi volesse avere il programma dettagliato, possiamo dare un riferimento internet? Beh sì, quello della Casa della Memoria. Sì, ce lo puoi dire tu? Sì, allora www.casadellamemoria.culturaroma.it. Benissimo, allora ricordiamolo, Cinema, Storia e la Resistenza da oggi, giovedì 19 fino a sabato 21 settembre, hai detto dalle 19? No, dalle 20:30. Ah, dalle 20:30, scusami, allora dalle 20:30 a seguire, un documentario e un film di finzione. Bene, via Annabella. San Francesco di Sales numero 5. Benissimo, qui a Roma, chiaramente. Annabella, io ti ringrazio, a risentirci magari presto per le prossime novità. Bene, senz'altro, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Buona serata. Annabella Gioia, curatrice della rassegna Cinema, Storia e la Resistenza. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@andarossa.info e di Visionari c'è anche la pagina Facebook. Ben ritrovata Luchi Massa, ci sei? Ci sono, mi senti? Ti sento. Allora, direttrice della settima edizione di Some Prefer Cake, festival internazionale di cinema lesbico a Bologna, da oggi 19, giovedì 19 settembre fino a domenica 22. Luchi, allora, dici un po' di questa settima edizione. Allora, possiamo cominciare dicendo il focus di questo festival. Questo festival è dedicato alle lesbiche che resistono. È il filo rosso che collega i temi e le storie di questa settima edizione. Una dedica speciale l'abbiamo fatta alle lesbiche sudafricane, per tenere sempre accesi i riflettori sul crimine di odio e degli stupri correttivi, e le lesbiche cinesi, che inventano strategie comunicative per sottrarsi alla repressione delle autorità cinesi. Sì. Alle lesbiche cinesi dedicheremo una carte blanche sul cinema, appunto, emergente cinese e lesbico, che è curata da Marie Verneren, che è la direttrice del festival di Bruxelles. Sì. Ti dico un po' di numeri se vuoi. Sì, anche ecco, sì, sono... a partire proprio dalle opere che proporrete, insomma. D'accordo. Allora, quest'anno abbiamo 51 film in totale, sì, di cui 21 anteprime, di queste 21 anteprime abbiamo 8 europee. Sì. Come saprai, San Prefer Cake non è solo cinema, ma è anche spettacoli di danza, performance, mostre, presentazioni di libri, party. E quest'anno abbiamo anche una tavola rotonda, per noi molto importante, sul tema del femminicidio. Sì. In particolare femminicidio e media, cioè come i media trattano il termine femminicidio, invitando, sì, esperte della comunicazione, scrittrici, anche attiviste politiche, per approfondire questo tema. Mi sembra un buon filo rosso, perché abbiamo cominciato parlando di una rassegna di cinema sulla resistenza, e quindi qui resistenza al femminile per quanto riguarda in special modo Sudafrica e Cina. E mi sembra proprio azzeccato. Sì, sì, infatti è una resistenza in cui facciamo vedere intanto tante storie, quindi storie che partono da noi, storie importanti, storie drammatiche, ma anche storie divertenti, perché come tu ben sai la satira e l'autoronia sono fanno parte della resistenza, no? Certo. Le donne e gli uomini resistono anche con l'ironia. E infatti quest'anno abbiamo, se vuoi ti dico solo qualche titolo, perché naturalmente sono tanti, certo, quindi non è, certo, possibile. Abbiamo il film di inaugurazione, e quindi di questa sera, che è Heterosexual Jill, che è una commedia romantica satirica e molto divertente. Questa è una anteprima europea. E poi abbiamo un film nepalese, un'anteprima italiana, che si chiama Songava. Songava racconta una storia lesbica, è la prima storia lesbica nel cinema nepalese. È un film drammatico, ma è ricco di empowerment da parte delle protagoniste. Luchi, volevo chiederti un'altra cosa. Intanto, se è prevista, sì, la presenza di alcune delle autrici di questi lavori, e poi, visto che si tratta della settima edizione, se ormai ha una sua insomma, è riconosciuto questo festival a Bologna e non solo, insomma, che se si è sviluppato, insomma, in questi 7 anni di storia. Sì, allora, alla tua prima domanda posso risponderti che, appunto, come ogni anno il festival dedica a una regista in particolare una retrospettiva. Sì. E quest'anno la dedichiamo a Cheryl Dani, che è una pioniera degli anni 90 del cinema lesbico afroamericano e inventora del genere confessionale. Lei sarà nostra ospite per tutto il festival. Altre ospiti sono Aurélie Lemanceau, che è la testimonial del festival, l'avete vista anche sulle immagini che abbiamo mandato in giro, e lei è una delle protagoniste non principali del film La vita d'Elle, quella che è il film che ha vinto a Cannes. Abbiamo, come dicevo prima, Marie Vermeren, che è un esperto del cinema cinese. Abbiamo anche autrici italiane, fra l'altro una regista che viene da Roma, Nadia Pizzuti, che ci presenterà un suo documentario. Abbiamo una regista americana che si chiama Anna Margherita Albello, che ci presenta un film veramente esilarante che si chiama Chi ha paura di Vagina Wolf, che diamo sabato sera in prima italiana, quindi possiamo immaginare la trama qual è. Bellissimo. È veramente, veramente divertente, ma anche lei è veramente stupenda, divertente. E poi tante altre, abbiamo, certo, anche 3 registe che vengono da Istanbul, e le abbiamo invitate con molto piacere anche per un discorso politico, no? Sì, della rivoluzione che le donne stanno facendo a Istanbul, quindi magari parleremo anche un po' di quello. Per quanto riguarda la storia del festival, sì. La storia, esatto. Allora, sempre perché che è nato come passione per il cinema lesbico, in particolare per il cinema cortometraggio, perché come tu sai la distribuzione del cortometraggio in Italia praticamente non c'è. Dalla seconda edizione in poi abbiamo allargato, e per forza, perché c'è tantissima produzione di cinema lesbico mondiale, e quindi a questo punto siamo un festival riconosciuto non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Il pubblico è cresciuto sempre di più, l'anno scorso abbiamo avuto più di 4.000 presenze in 4 giorni, quest'anno abbiamo aumentato un giorno, quindi mi aspetto ancora di più. Questo festival è praticamente autofinanziato, abbiamo soltanto una piccolissima aiuto dalla regione e basta, però abbiamo una rete ottima con tantissime associazioni, collettivi italiani, politici, ma anche con locali, circoli bolognesi. Insomma, abbiamo una bella collaborazione che dura tutto l'anno tra cinema e cultura, tra cinema e cultura e politica, esatto, e poi ovviamente tanto autofinanziamento anche grazie magari ai locali amici, no? Sì. Ai locali friendly, è così che si va avanti. Senti Luchi, allora ricordiamolo, 7ª edizione di Some Prefer Cake, festival internazionale di cinema lesbico, che poi è anche più articolato, non si parla solo di cinema, a Bologna dal 19 al 22 settembre. Allora in chiusura ti chiedo i luoghi fisici del festival e poi un sito internet di riferimento. Sì, allora il festival, come dicevi tu, comincia oggi alle ore 16, mentre stasera alle ore 20:30 c'è l'inaugurazione ufficiale. Sì. Poi venerdì comincia alle 14 e finisce alle 24, sabato comincia alle 10:30 con la tavola rotonda sul femminicidio e finisce alle 24 la proiezione, alle 24 c'è il party ufficiale a Senza Filtro, che è un centro culturale qui vicino, e domenica comincia alle 12 e finisce alle 24. Il tutto si svolge al nuovo cinema Nosadella in via Berti 21. L'hashtag di quest'anno del festival è SPC 2013 e il sito è somepreferrcakefestival.com. Benissimo, sei stata esauriente. Luchi, un abbraccio, a risentirci per le prossime cose. Grazie, un abbraccio a te, vi aspetto tutte e tutti. A presto. Ciao. A presto, ciao. Luchi Massa, direttrice della 7ª edizione di Some Prefer Cake. Ben ritrovata Giovanna Taviani, ci sei? Evviva, buongiorno a tutti. Tutto bene? Ma sì, stiamo aspettando come sempre qui a Salina sull'isola, col tempo che prima del Salina Dog Fest fa un po' le dinze, ma adesso sono convinta che Eolo ci porterà il sole. Allora Giovanna, direttrice della 7ª edizione del Salina Doc Fest per quanto riguarda il documentario di narrazione, a Salina appunto nelle Isole Eolie, da oggi 19 settembre fino a domenica 22. Giovanna, allora 7ª edizione, come si caratterizza? Beh, si caratterizza intanto con un urlo di vittoria per la vittoria appunto di Gianfranco Rosi, Leone d'Oro a Venezia, quindi una rivoluzione per il documentario italiano, quindi il Salina Doc Fest, che insomma insieme a altri festival dedicati al cinema del reale è da anni che si batte per un riconoscimento del film documentario, e che ha avuto Rosi fra l'altro in giuria da noi lo scorso anno, beh insomma non può che esserne felice ed esultare di gioia. Tra l'altro Giovanna, io Gianfranco l'ho conosciuto proprio al Salina Doc Fest qualche edizione fa, quando non ci tradivi e venivi, adesso invece da un po' di anni ci tradisci e non riesco più ad averti qua sull'isola e ci manchi. Sì, infatti era stato presente anche con Di Losi Level 3 anni fa, cioè proprio un amico storico del festival. Noi abbiamo sempre creduto in lui quando appunto la RAI e le distribuzioni italiane, che ora gridano al miracolo e al fata, ve l'avevo detto io, invece quando sai bene che qua Rosi nel mondo famoso e conosciuto in tutti i festival di tutto il mondo, in Italia non ha mai trovato distribuzione, insomma. Sì, quindi vabbè, adesso l'ipocrisia dell'Italia. E niente, partiamo stasera. Il tema quest'anno è un tema che mi sta molto a cuore, anche che è un po' il frutto un po' del vento che ha attraversato la nostra politica di quest'anno, ed è bene comune. Vedici quello che vuoi tu. Avremo varie sezioni, un concorso molto alto secondo me di documentari narrativi, li chiamiamo noi, ma chiamiamoli film, come dice giustamente Rosi. Una sezione fuori concorso dedicata alle scuole con il film di Gaglianone, La mia classe, anche quello un ibrido, no? Tra cinema di finzione e cinema documentario. Avremo Emma Dante direttamente da Venezia, che con il suo film che proietteremo sabato sera in piazza, e sarà fra l'altro Emma Dante anche la presidentessa della giuria del concorso, che quest'anno abbiamo voluto essere isolana, cioè abbiamo raccolto 5 giovani fidelizzati del festival, amanti del documentario, che saranno coordinati da Emma Dante e voteranno il miglior documentario. Allora, un po' una serie di incroci, perché il tema del festival è bene comune. Ieri c'è stata, ieri mattina, la conferenza stampa di presentazione della fondazione, della creazione della fondazione Teatro Valle Bene Comune, ed Emma Dante, oltre al fatto che sarà ospite tra pochi minuti qui in trasmissione, è una delle varie anime che ha attraversato l'occupazione del Valle in questi 2 anni e mezzo. Insomma, un po' di incroci sul tema cinema, ecco. Che bello questa cosa. Ah, sì. Quindi sarà da voi. Salutamela tantissimo e dille che tutta l'isola l'aspetta. Benissimo. Allora, continuiamo con, ecco, volevo chiederti anche la mole di proposte di quest'anno, Giovanna. La mole che qua viene di proposte? La mole delle proposte, sì. Quanti sono i lavori, sì, che presenterete? Oltre a questi, insomma, queste sezioni fondamentali, sono molto fiera perché abbiamo, a parte la sezione Emergency con Gino Strada, che porterà, comunque, che sarà presente sull'isola, porterà un documentario su un ospedale in Sudan, che è stato tra l'altro candidato all'Oscar, e farà un incontro in piazza sul tema appunto salute, bene comune, guerra, alla luce anche dei fatti che, insomma, di questi giorni, e quindi anche quello insomma, è molto sentito nell'isola. Poi abbiamo stasera, inauguriamo una mostra fotografica To Water, che è dedicata all'acqua, che è stata curata da Cristina Sayannassis, che è una persona che ha avuto anche il patrocinio dall'UNESCO e è stato supportato dal Ministero dell'Ambiente. Una mostra fotografica realizzata da tutti artisti internazionali fotografi sull'acqua, cioè come l'arte può valorizzare l'acqua in senso di bene comune. E la cosa che mi rende molto fiera è che la mostra inaugura il suo rapporto con l'Italia proprio a Salina. È stata una mostra che è andata dappertutto in tutto il mondo e ha scelto Salina per appunto inaugurare il suo nuovo percorso italiano. Insomma, siamo molto fieri. Salina diventa un ricettacolo di artisti, fotografi, cinema, tutti appassionati non solo alla realtà, ma anche appunto anche alla politica culturale, no? Sì. Del nostro paese. Sì, sì, questo sì, mi sì. mi sembra molto bello. E poi abbiamo anche una video installazione del gruppo GAR di Catania, che sta praticamente inaugurando un nuovo modello di politica partecipata. Tra l'altro avremo anche insieme a Gino Strada il sindaco di Messina a Corinti, che ha fra l'altro annunciato di aver inaugurato per primo un nuovo assessorato dedicato ai beni comuni. Ah. Insomma, mi sembra che tutto torni. Tra l'altro un sindaco no ponte contro la costruzione, esatto, del ponte. Esatto, sarà divertente, guarda, avremo chiaramente anche l'assessora al turismo che ha patrocinato l'evento, Michela Stancheris, della nuova insomma governo Crocetta, che finalmente, almeno nel nostro caso, sai che noi abbiamo sempre lanciato appelli perché, come tutti i festival in Sicilia, ci promettevano e poi la regione spariva. Devo dire pubblicamente che mi sembra che sia iniziato un nuovo corso, ecco. Qualcosa si vede, insomma. Sì, sì. Senti, Giovanna, allora, per saperne di più, indicazioni internet ce ne dai? Ah, Assolutamente, www.salinadocfest.it, seguiteci anche su Facebook. Stiamo seguendo in diretta l'attesa dell'Isola del Festival con delle clip divertentissime, e sul sito del Festival avete tutto, programma nel dettaglio, perché c'è anche la musica, scusami. Chiudiamo con Karima a Santa Marina e Roy Paci a Malfa, quindi insomma ci sarà da ballare. Dai, vieni, ripensaci. Va bene. Intanto ti abbraccio, Giovanna, e spero grazie anche di risentirti presto su queste frequenze. Grazie mille a tutti, ciao. Ciao Giovanna, ciao. Ciao. Giovanna Taviani, direttrice della settima edizione del Salina Doc Fest Salina nelle Isole Eolie, da oggi fino a domenica 22 settembre. E io che ti inseguivo al telefono, Anna Maria Pasetti, ben ritrovata. Allora, oggi ci sentiamo perché tu sei curatrice del libro Apparenze, che è in uscita col anzi è uscito col Federica, ti sento un po' male, eh? Io ti sento abbastanza bene. Io invece un po' male, comunque continuiamo. Trova un'altra collocazione. Allora, in uscita con il DVD Girl Model di David Redmond e Ashley Sabin, è uscito ieri 18 settembre. Allora, partiamo dal libro, ma poi chiaramente ci focalizziamo sul documentario. Dici un po', Anna. Ma guarda, magari sei una domanda più precisa. Come più precisa? Mi sento più a mio agio. Il libro Apparenze, cos'è? Dai, dici un po'. Il libro è una raccolta fondamentalmente di interviste che ho fatto a degli esperti sulla materia attorno alla quale ruota il documentario Girl Model, e in breve si tratta di denunciare una sorta di traffico umano, perché di questo stiamo parlando, di ragazzine che 13-14 anni, le quali vengono con la promessa di diventare delle model, delle modelle, delle fotomodelle, sul mercato soprattutto orientale, vengono mandate un po' allo sbaraglio, ingannate e così. E l'esperienza di due registi, della coppia di due registi rispetto a Girl Model, è quella di aver inseguito proprio fisicamente la storia di una ragazzina di 13 anni, Nadia, che dalla Siberia viene scelta da un'agenzia di moda per essere mandata a Tokyo, perché il mercato giapponese della moda richiede dei volti giovanissimi e proprio infantili, e insieme ad altre ragazze vengono mandate in appartamenti, vengono sfruttate con dei contratti che non capiscono e poi rimandate a casa con addirittura dei debiti, quindi non solo non guadagnano, ma le famiglie devono pagare. Dietro c'è chiaramente un mercato criminale, c'è l'inganno che viene fatto dalla mondiale alle famiglie, lavoratori di ignoranza, e i due registi americani, newyorkesi, sono riusciti con grande abilità a fare questo lavoro di pedinamento senza mai interferire con quello che era il loro oggetto di riferimento, perché loro stavano fisicamente anche con questa ragazza che li vedeva, ma c'era un passo, no? Il libro, come avrai forse visto, dopo un saggio che ho scritto sul film, anche proprio da un punto di vista critico cinematografico, c'è un po' diviso in parti, cioè ho intervistato un'attrice che vedrai, adesso voglio fare i nomi, li farei magari tu, uno psicologo dell'età evolutiva, una fotografa della moda, una sociologa della moda, un presidente di un'associazione denuncia per i diritti dei ragazzi, dei bambini in tutto il mondo, che è Carles Homme. Poi c'è anche un estratto dal libro di Lorella Zanardo, che si chiama Il corpo delle donne. Lei è un'attivista, giornalista, scrittrice e anche documentarista, che appunto ha messo in evidenza come il corpo delle donne venga sfruttato e manipolato attraverso la televisione. Senti Anna, io chiaramente non l'ho visto il documentario, però volevo chiederti, questa truffa, questo questo sistema che sfrutta le giovani e non solo e i loro corpi è un po' diffuso in maniera capillare in tutto il mondo? Soprattutto nei territori presso i quali c'è più richiesta da un punto di vista proprio delle caratteristiche somatiche. Cosa succede? Che nei paesi, tipo il Giappone in questo caso, vengono richieste delle caratteristiche. Sì. Queste caratteristiche vengono individuate in altri territori e in quei territori specifici inizia il traffico. Nel caso specifico abbiamo visto la Siberia, quindi comunque magari tra somatici di ragazzine sedi è molto, ma Anna? Ti abbiamo perso. Anche comunque l'est europeo, certo non vanno in Svezia dove comunque c'è un sistema di controllo assolutamente più evoluto, vanno a lavorare su quei, in quei mondi in cui c'è molta povertà, dove c'è fame di emancipazione, no? Cioè, questa la possiamo chiamare così, e di guadagno immediato. Di conseguenza è chiaro che il paese da un punto di vista economico più potente risucchia le energie del paese più povero, no? Come succede sostanzialmente nel capitalismo frenato. E questo è un esempio che può funzionare, cioè succede anche con l'America Latina, se vengono richiesti determinati tratti somatici, piuttosto che il Brasile, piuttosto che l'Africa, no? Sono le bambine africane, insomma. Certo, è una cosa drammatica, sì. E che sta prendendo piede sempre di più perché il controllo è fatto, anche se ci sono delle regole, perché per esempio la condannata attraverso Vogue ha fatto con cioè un trattato di intesa dei minori che è proprio dell'ONU, ha fatto una serie di decalogo, no? della scelta delle modelle, ci sono dei divieti di assunzione di modelle al di sotto dei 16 anni, però non viene mai rispettato. Senti, si verificano anche casi di violenza? Sì, perché molto spesso queste ragazzine, non potendo soddisfare le spese che gli sono richieste, si prostituiscono. E quindi c'è anche una forma di violenza, di abuso dei minori grave. Sì. Ci sono anche delle cifre rispetto alle persone coinvolte a partire proprio dalle donne? Guarda, io al momento non te le so dire, però nel libro trovi, ci sono degli estratti dal trattato di Pierre Deson che spiegano il fenomeno anche in termini statistici. Sì. Benissimo. Allora, allora è uscito ieri libro Apparenze e Girl Model, il DVD di David Redmond e Ashley Sabin. È uscito, diciamolo, per Feltrinelli Real Cinema, che si acquista dei diritti. Quindi informazioni in rete si possono trovare dove? Assolutamente, trovi tutto. Ok, benissimo. Anna, c'è anche un blog del film in cui c'è un forum dedicato proprio alle ragazzine che vogliono in qualche modo denunciare se ci sono stati degli abusi, cioè loro hanno trasformato il film in qualcosa di molto vivo e attuale. Benissimo. Anna, io ti ringrazio e facci avere sempre notizie delle tue attività, ormai sei lanciatissima. Tra l'altro sei la quarta intervenuta quest'oggi, 4 donne, mi sembra un buon inizio. Ti abbraccio, grazie mille. Ciao Anna. Arrivederci. Ciao, ciao. Anna Maria Pasetti, curatrice del libro Apparenze, in uscita col DVD Girl Model di David Redmond e Ashley Sabin, uscito ieri 18 settembre, quindi a disposizione. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica, lo ripetiamo, visionari@ondarossa.info, e poi oltre alla pagina sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari, c'è anche la pagina Facebook di Visionari. Ed è con noi Andrea Spickler, regista del documentario Teorema Venezia, in uscita in sala domani 20 settembre, è stato presentato anche a Venezia. Andreas, benvenuto finalmente a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Dico finalmente perché da prima dell'estate che ci stiamo un po', ti sto un po' inseguendo, mi fa molto piacere averti qui. Allora, visto tra l'altro che è un periodo in cui di navi da crociera se ne parla, ci sono anche dirette, sto parlando della Concordia, ma nel tuo documentario che ora ci racconterai si parla di Venezia. Allora dicci un po', Andreas, cos'è questo Teorema Venezia? Ma Teorema Venezia, forse un titolo un po' ambizioso, racconta cosa succede con, se una città si dà praticamente completamente al turismo di massa, diciamo così. Ovviamente in questo le grandi navi hanno un'importanza, uno perché sono comunque un'immagine emblematica di come questa città viene, cioè la disproporzione tra queste grandi navi e la fragilità di Venezia davanti è un po' un'immagine simbolica di quello che sta succedendo anche a livello di numeri, di tutto. Sono più di 20 milioni di visitatori ogni anno e ogni anno ci sono meno abitanti a Venezia, siamo adesso a 58.000 e stanno calando in continuazione, per cui è proprio, diciamo, questo impatto allucinante. Poi il film stesso non è un film a tema, nel senso che alla fine racconta storie di vita di veneziani, ovviamente un po' sotto l'aspetto di cosa vuol dire vivere in queste condizioni, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, questa diciamo un po' lenta agonia di Venezia dal punto di vista degli abitanti, e come è funzionato? Li hai incontrati? Il film si basa anche su interviste a loro, e cosa ti hanno raccontato, Andreas? Ma sono più che altro dei spaccati di vita o come dei ritratti in qualche maniera, perché io spesso nei miei lavori parto da un tema, cosa, un soggetto che mi interessa, poi però ho voglia di vedere le persone e raccontare queste situazioni attraverso il personaggio, per cui c'è un agente immobiliare che è stato un restauratore che vende palazzi sul Canal Grande, ma che poi si rivela di essere non solo un gran conoscitore proprio della sostanza dei palazzi, per cui anche dei problemi fisici che ha questa città, ma anche uno che, insomma, ha una profondità sua e si sente quasi un vinto in tutta questa faccenda veneziana. Poi c'è una vecchia signora che è scrittrice, che ha un blog dove denuncia tutto quello che succede in città. Poi c'è un trasportatore che uno che trasporta, diciamo, via i bagagli della gente che lascia la città. Alla fine anche lui deve lasciare la città perché è stato, insomma, non ha più la casa e non riesce a permettersi a un'altra casa. Quello è un po' il problema, a parte le masse di turisti, per cui anche la monocultura che comporta la scomparizione di molti esercizi in città. Uno dei problemi grossi è anche il fatto che le case costano troppo per una famiglia di veneziani. O l'ha ereditata la casa, altrimenti te ne devi andare, perché costano troppo, perché c'è gente di tutto il mondo che compra le case perché è figo avere la casa a Venezia. Poi c'è tutta la speculazione sul bed and breakfast, che sono, diciamo, esplose negli ultimi 5 anni, per cui anche da quel punto di vista le case diventano una base di economica, diciamo. Insomma, sono queste un po' le cose principali. Poi sono anche altre microstorie, ci sono cantanti delle gondole che ironizzano sul turismo e riflettono sul turismo. C'è una guida turistica, una ragazza che anche lei sta in mezzo. Cioè, c'è molta ambivalenza, chiaramente, perché quasi tutti in qualche maniera ci vivono il turismo e alla stessa maniera si rendono conto di quello che il turismo, diciamo, di massa fa con la città. Ecco, due dei problemi che avevi detto tu poco fa sono chiaramente quello del costo delle case, che si è alzato di molto, e degli esercizi commerciali il cui spazio si sta riducendo a favore poi chiaramente di oggettistica e souvenir vari. Ecco, ti volevo chiedere quali altri sono, a tuo modo di vedere, per quello che, insomma, hai potuto raccogliere, gli altri problemi legati a questo turismo massificato, e quali le possibili soluzioni per non lasciar morire una città. Ma diciamo, uno dei problemi base è proprio il fatto, per esempio, che il comune di Venezia è sempre nelle cifre rosse, non ha mai soldi. Ultimamente sembra che non ci sono neanche soldi per riparare le rive dei canali, che è molto tragico. Figurati poi avere dei soldi, per esempio, a sostegno di giovani famiglie, di giovani esercizi che non sono di turistici, cioè giovani imprese, eccetera. Cioè, è stato fatto qualcosa ogni tanto, ogni 3-4 anni, però. Per cui la subità che una città che fa un sacco di soldi, o con la quale vengono fatti tantissimi soldi, perché è un business, un giro d'affari, si parla di 1,5 miliardi o quasi 2 miliardi col prodotto di Venezia, però di introito nella città rimane poco, chiaro, sì, singoli esercizi ci guadagnano, però è più l'indotto, diciamo, in qualche maniera, o anche le agenzie globali che lavorano col turismo che ci guadagnano. Insomma, è un problema che ovviamente non tocca solo Venezia, è un problema di distribuzione, ma anche di leggi, capire come si può riportare un po' di questo profitto anche sul territorio stesso, anche per mantenere quello che c'è di comune, perché alla fine anche quello è il problema. Venezia è un bene comune in qualche maniera. Sì, proprio questo. Vai, continua. Sì, scusa, e però ci guadagnano, non dico pochi, ma solo certo tipo di gente, e più che altro si rischia di essere veramente spazzato via completamente. Insomma, è un problema grosso che ovviamente il film non riesce a dare una risposta, anzi il film è anche abbastanza duro nel suo pessimismo, diciamo, però proprio per quello vuole un po' scuotere le menti e i cuori, diciamo. A proposito delle diverse problematiche, se ricordo bene, relativamente poco tempo fa c'è stata anche una mobilitazione dal basso, per esempio contro la presenza delle navi da crociera a ridosso della città. Sì, c'è sempre stato, poi ovviamente dopo l'incidente della Concordia del Giglio è diventato molto più massiccia la protesta, adesso sta diventando sempre più grossa in qualche maniera. Giusto anche questo sabato c'è una mobilitazione molto grossa, perché solo sabato passeranno 11 crociere in Venezia, che sembra che sia un nuovo record. Insomma, no, c'è mobilitazione, almeno contro le grandi navi c'è. Chiaro, poi ci sono altri che dicono portano anche i turisti, fanno guadagnare. C'è un problema grosso, forse, è che non esiste nessun vero piano. C'è una cosa molto selvaggia, non esiste una pianificazione. Il turismo, cioè, io non voglio essere completamente contro il turismo, chiaro, porta anche denaro, porta lavoro, eccetera, però va regolamentato, va pianificato, sì, va sì, un sì. po' pensato, insomma. Ovvio, anche per Venezia si è parlato di numeri chiusi, non far entrare tutti quanti, non troppa gente in città. In teoria ci sono varie idee, però nessuna è mai stata discussa proprio fino in fondo, e meno ancora provata. Andreas, il tuo documentario è stato presentato anche a Venezia, esce domani, con che modalità? Ma esce una distribuzione, diciamo, più network. La distribuzione si chiama Cine Agenzia. Chiunque abbia voglia, insomma, di fare una proiezione pubblica può rivolgersi a cineagenzia.it e prenotarla, insomma. Uscirà in molte città italiane, alcuni cinema del 6, però anche a livello, diciamo, di associazioni. Benissimo. E non sempre, alcune volte anche con la mia presenza. Beh, che non è male, insomma, l'incontro con l'autore. Andreas, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto. Ricordiamolo, il tuo documentario Teorema Venezia è in uscita in alcune sale domani 20 settembre. Ci dai altri riferimenti internet? No, direi il sito cineagenzia.it è quello più importante. C'è un sito anche per il documentario, però porta il titolo tedesco-inglese per il momento. Ma comunque Cineagenzia ha tutto, specialmente le date di proiezione, anche le prenotazioni, insomma. Allora, un abbraccio e a presto, Andreas. Grazie a voi. Ciao. Andreas Pickler, regista del documentario Teorema Venezia. Visionari su Radio Onda Rossa, proseguiamo con gli ospiti e parliamo di altre uscite nelle sale. La in collegamento con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Ci sei? Certo, eccoci. Oh, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico. Per parlare con te di un'uscita in sala di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto in versione 3D, per poi allargare il discorso a una serie di film che la Cineteca restaura o restaurerà e che poi saranno riproposti in sala a distanza di decenni. Raccontaci un po' di questo progetto, Gianluca. Sì, è una grande operazione kamikaze di proporre al pubblico italiano 10 grandi film del passato restaurati e fare come succede negli altri paesi, soprattutto in Francia, e cioè che sia possibile vedere in una stagione cinematografica, oltre ai grandi film del presente, ai bellissimi film che vengono prodotti oggi, anche una selezione di film del passato. La tecnologia digitale ci consente oggi non solo di fare grandi operazioni di restauro, ma di far sì che sia relativamente semplice proporre i film del passato appunto nelle sale di oggi. E cominciamo da lunedì prossimo con Il delitto perfetto, che è stato restaurato dalla Warner Bros. Negli Stati Uniti e riportato nella sua versione originale, quella concepita da Hitchcock, cioè una versione in 3D. Tra l'altro è un bellissimo restauro, un restauro anche molto fedele all'originale, anche, come dire, alla differenza di, chiaramente il 3D nel 1953 era diverso rispetto al 3D di oggi, e questo restauro è molto fedele all'originale, anche come dire, alle sue fragilità, ma anche ci riporta tutto il genio di Hitchcock, perché questo film era stato veramente concepito da Hitchcock, che era un pazzo delle tecnologie, che adorava misurarsi con le tecnologie, lo ha sempre fatto, l'ha fatto nel passaggio dal muto al sonoro, l'ha fatto sul suono stereofonico, l'ha fatto sul Vista Vision, l'ha fatto con il colore e l'ha naturalmente voluto fare anche con il 3D. E secondo molti registi anche di oggi, per esempio Scorsese, dice che questo è il 3D più bello che sia mai stato fatto. E poi è un film geniale che mostriamo in versione originale con sottotitoli, perché comunque le voci degli attori sono decisive per ritrovare la bellezza del film. Ed è un film geniale perché il MacGuffin è sempre al centro dei racconti di Hitchcock, quindi il MacGuffin è come sviare l'attenzione dello spettatore, e qui quasi il meccanismo del thriller è quasi il MacGuffin, perché comunque è un grande film sui rapporti tra gli uomini e le donne, con Grace Kelly che in fondo fu consacrata da questo film e che in 3D la vediamo, ecco, sembra quasi di vivere 2 ore con lei, ecco, con la sua bellezza, con il suo splendore, con la sua sottigliezza, perché poi è un film come sempre in Hitchcock, che ha tante letture e che ci restituisce tanti sapori e quindi di grande profondità. Tra l'altro credo ben pochi abbiano avuto la possibilità di vederlo in 3D fino a questo momento. Sì, perché anche all'epoca, quando addirittura quando uscì nel 54 il film, la stagione del 3D si era esaurita. Il 3D era stato inventato e sperimentato contro la televisione, ecco, negli Stati Uniti si stava affermando la televisione, il cinema trova delle tecnologie, ma il 3D viene soppiantato da un'altra invenzione, il CinemaScope, e quindi nel 54 ormai tutti volevano il CinemaScope e nessuno voleva il 3D. Tra l'altro all'epoca era una tecnologia complicatissima, necessitava di grandi modifiche anche nelle sale cinematografiche. Quindi questa versione ha dormito per molti anni. Alla fine degli anni 80 fu fatto un primo restauro in pellicola e il film ebbe qualche uscita in alcune manifestazioni, a Roma fu mostrata a Massenzio, e poi adesso a Berlino, la Warner, al Festival di Berlino nello scorso febbraio, la Warner ha presentato questa versione digitale splendente. Gianluca, per chi ci ascolta, l'attività della Cineteca di Bologna e poi anche se ci puoi dire indicativamente con che cadenza verranno presentati questi lavori in guarda, sala. Guarda, questo progetto che si chiama Il Cinema Ritrovato al Cinema è un po' la scoperta dell'acqua calda, nel senso che è normale vedere, dovrebbe essere normale vedere i film al cinema e film del passato al cinema. Purtroppo oggi spesso non è così. Io credo che vedere questi film oggi possa essere un'emozione straordinaria per chi li ha visti all'epoca, ma anche per i giovani che per la prima volta hanno la possibilità di vedere questi film straordinari su un grande schermo assieme ad altre persone. Io penso, ecco, se il prossimo film sarà Il Gattopardo, che uscirà alla fine di ottobre, se io avessi visto Il Gattopardo su un telefonino o su un piccolo televisore non l'avrei mai amato, avrei pensato ma cosa c'è di speciale in questo film. Ecco, io penso che noi che abbiamo avuto la fortuna di vedere Il Gattopardo al cinema dobbiamo fare di tutto perché non solo quelli della nostra generazione ma anche i ragazzi abbiano questa possibilità. La cosa bella è che questo progetto di presentare un film restaurato ogni mese, che poi viene programmato il lunedì e il martedì per 4 settimane, quindi per 8 giorni, è un progetto che è stato adottato dal circuito cinema, da molte sale in Italia. Sono oggi, al momento sono 36 sale, dalla Sicilia, da Sciacca fino al Friuli, fino a Gorizia. A Roma il progetto verrà presentato, i film verranno presentati al Fiamma e al Giulio Cesare, tranne questo primo film, Il Delitto Perfetto, che da lunedì sarà al Cinema Adriano, quindi un cinema centralissimo, e sarà appunto programmato il pomeriggio e sera, tutti lunedì e martedì per 4 settimane. A questo punto chiudiamo, Gianluca, con un riferimento internet per le attività della Cineteca di Bologna. Sì, guarda, questo progetto ha un sito che si chiama, che è www.ilcinemaritrovato.it, dove sono indicate tutte le sale che programmano i film, rimandano poi ai siti delle varie sale, e poi ci sono tanti approfondimenti. E poi ecco una cosa su cui stiamo lavorando è aprire la possibilità che tutti possano scrivere delle critiche oggi, perché questo mi sembra un punto essenziale. Ecco, sì. Su questi film della serie, e il prossimo è Il Gattopardo, poi sarà la volta del Zafano di Paradis, poi un capolavoro assoluto che è considerato un film minore, girato a Roma da Mario Monicelli nel 1960, col cast più straordinario secondo me di qualsiasi altro film, perché un cast che riesce a mettere insieme Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara, cioè 3 generazioni di attori diversissime tra di loro, ma che assieme sono uno splendore, diretti da quel genio di Mario Monicelli in Risate di Gioia, il nostro cinepanettone al contrario, per chi vuole vedere del grande cinema, ecco, provare delle grandi emozioni, e poi a seguire Ninochka di Lubitsch, e poi in febbraio mostreremo La Febbre dell'Oro, il film di Chaplin. Febbraio del 2014 segnerà i 100 anni della nascita di Charlot, in una versione totalmente nuova e molto vicina a quella che Chaplin aveva concepito, e poi La Grande Illusione, e poi Oscar Mon Amour, e poi Roma Città Aperta, e poi Chinatown. Gianluca, potremmo anche fare che di volta in volta ci sentiamo, così li lanciamo. Molto, molto volentieri, molto, molto volentieri. Poi spesso avremo dei registi e degli artisti di oggi che parleranno della modernità di questi film, che credo sono invecchiati bene. Bene. Gianluca, è stato un piacere. Allora, a questo punto ti do appuntamento alla prossima uscita. Assolutamente, a fine ottobre. Un abbraccio. Ciao. A voi. Ciao. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per l'uscita in sala lunedì 23 settembre di Il Delitto Perfetto di Alfred Hitchcock. ben ritrovata su a Radio Onda Rossa. Ci sei? Eccoci qui. Stavolta in versione cinematografica nella trasmissione Visionari. Allora, intanto come ti senti per questa giornata, Emma? Beh, sono in questo momento molto molto curiosa di sapere, di vedere insomma le reazioni del pubblico, perché poi un film quando esce nelle sale chiaramente comincia ad avere la sua vita autonoma, quindi è come una creatura di cui poi il genitore si deve in qualche modo, da cui si deve allontanare, quindi sai, un momento bello, gioioso, ma è anche così commovente. Sì. Emma, allora alla base c'è un tuo libro, l'omonimo libro. Partiamo da quello. Come nasce il libro Via Castellana Bandiera? Il libro è stato scritto proprio con l'intenzione di farci un film, per cui quando scrivevo questo romanzo in qualche modo pensavo già che l'avrei appunto fatto, questa storia l'avrei poi riscritta per il cinema. Quindi nasce già con questa intenzione. E poi effettivamente il passaggio successivo, con l'intervento di Giorgio Vasta e in seconda battuta di Licia Eminenti, prende appunto la fisionomia di un film, questo romanzo. Il tuo rapporto con la tua città, Emma? Il mio rapporto con la mia città è difficile, come credo tutti i rapporti di tutte le persone che vivono, decidono di vivere soprattutto al sud, in città in cui c'è una componente caratteriale molto forte. Palermo è una città di carattere, quindi è in qualche modo una città che imprime sui suoi abitanti, ma soprattutto sugli artisti che lavorano lì e cercano insomma di tirare fuori la propria voce, imprime sicuramente una città insomma matrigna, no? Diventa poi mi sento una figlia d'arte, come se avessi questo nome Palermo dietro le mie spalle che mi accompagna sempre. Tra l'altro, Emma, quest'estate, nella settimana che ha preceduto Venezia, sono stato a Palermo e sono passato alla vicaria, che però nonostante il cartello dicesse quel giorno doveva essere aperto, era chiuso. Allora ti chiedo, raccontaci anche un po' dell'esperienza della vicaria e che cos'è adesso. La vicaria continua ad essere uno spazio, come dire, autogestito, perché è uno scantinato, continua ad avere la sua funzione di luogo dove si fanno gli esperimenti. Quindi appunto anche questa cosa che dici del cartello che segna, che dice che è aperto invece è chiuso, ma è vero anche il contrario, sono dei cartelli in volte in cui diciamo che è chiuso invece poi la porta è aperta, quindi è uno spazio in contraddizione con se stesso e cerca comunque sempre di aprire a nuove scoperte, insomma cerca di è un luogo dove noi continuiamo a fare la nostra ricerca. Senti, del film, tornando al film, è stato realizzato esattamente come era stato pensato, è stato un chiamiamolo work in progress, e quindi c'è stata molta interazione tra tutti e tutte coloro che hanno composto il film? C'è stata una grandissima interazione, c'è stata una lunga gestazione. Anche perché poi, a parte l'anno in cui è stata scritta la sceneggiatura, è appunto stato un anno di lavoro con Giorgio, e a parte quello poi dopo c'è stato un mese e mezzo di prove nel mio spazio teatrale con tutti gli attori, col cast al completo, e poi l'arrivo sul set con un bagaglio già preorganizzato, per cui gli attori sapevano già molto dei loro personaggi e la macchina da presa sapeva già il cammino, il percorso che avrebbe dovuto fare insomma durante le riprese del film. Allora, mi dicevi che il libro è stato pensato proprio con l'idea di realizzarne poi un film. Ecco, a questo punto ti chiedo, per te il teatro e il cinema in che rapporto sono? Ma per me si possono contaminare. Io credo che ci sia la possibilità, certo in maniera chiaramente come dire complessa, perché non è facile, ci sia la possibilità di di creare una contaminazione, una e anche una un'intercettazione l'uno dell'altro. E credo, insomma, che questo film che io ho fatto non si possa definire un film teatrale, perché è lontano da quel da quel modo lì, cioè nel senso che gli attori comunque sono, lavorano molto in sottrazione, la storia è molto molto da vicino, c'è cioè molta la luce naturale, la polvere, la strada, insomma tutto è molto vero, nel senso che la macchina da presa segue anche un cammino più da documentario che non da fiction, per cui però appunto sicuramente mi porto dietro nella costruzione di questo film tutto il mio lavoro, il mio metodo che ho sviluppato in questi anni con gli attori, facendo il mio teatro, per cui se io non avessi 15 anni di spalle appunto il teatro che ho fatto, probabilmente questo film non sarebbe venuto così antiteatrale. Senti, per chi ci ascolta e vuole sapere di più di questa storia, in breve come lo racconteresti? È semplicissima, è un pretesto assolutamente paradossale e assurdo, che nasce da una questione di principio, da un puntiglio di queste due donne che guidano entrambe due macchine diverse. Una è una donna borghese di Palermo, che ritorna a Palermo dopo 10 anni accompagnata dalla sua fidanzata, che appunto guida una multipla blu, e dall'altra parte c'è una donna molto anziana che conduce l'intera famiglia, quindi lei guida, lei è al volante, conduce l'intera famiglia verso casa. Tutte e due queste due auto si appunto si mettono in una stradina a doppio senso e si ritrovano una di fronte all'altra, e nessuna delle due vuole cedere il passo, e dunque si crea questo blocco, questa ostruzione della via, che poi comporterà tutta una serie di cose che non vi dico, perché spero, certo, insomma, vivamente che venite a vederli al cinema. Senti Emma, dagli spettacoli a Cappello fino al Teatro alla Scala, come vedi il tuo percorso artistico e professionale? Lo vedo nutrito, lo vedo abbastanza in movimento, io mi sento in movimento, questa è la cosa che mi piace di più, cioè, sì, nel senso che gli sconfinamenti, le nuove scoperte, le nuove sfide sono sicuramente un modo, cioè certo sempre se fatte in maniera onesta e sincera e autentica, come sto cercando di fare io con la mia compagnia che mi porto ovunque, credo che siano delle cose importanti di crescita per un artista e per il suo pubblico. Un'ultima cosa Emma, ieri mattina c'è stata la allora da quasi un anno il Teatro Valle è occupato e ha qui una trasmissione settimanale subito dopo di questa, quindi tra un quarto d'ora. Ieri mattina c'è stata la conferenza stampa per presentare la creazione della Fondazione Teatro Valle Bene Comune. Tu sei una delle anime che ha attraversato questi 2 anni e mezzo di occupazione. Che ne pensi di questa novità, di questa creazione? Credo che sia una risposta, come dire, tangibile di una serietà e rigore, una forza e una resistenza che raccontano molto di questo paese, anche raccontano molto della crisi di questo paese. Tra l'altro questa fondazione adesso si accinge a produrre il primo spettacolo, sì, per cui insomma è abbastanza, come dire, straordinaria questa cosa, e quindi non posso fare altro che appunto ringraziare le persone che hanno tenuto e che hanno resistito per 2 anni e mezzo e che ci hanno creduto, e quindi insomma in qualche modo ci aiutano anche noi a crederci. Bene. Emma, allora da oggi nelle sale via Castellana Bandiera in quante copie? 50 copie, non mi sembra male, insomma. Anzi, 51 per essere precisi, scusate. Io ti abbraccio e spero di risentirti presto. Grazie, grazie, buona giornata. Arrivederci. Ciao Emma, ciao. A risentirci. Emma Dante, regista di Via Castellana Bandiera, in uscita oggi nelle sale giovedì 19 settembre. Bene, allora, anzi male, perché l'ultimo collegamento previsto per oggi è fallito. Gianfranco Rosi è irraggiungibile, per cui dell'uscita in sala oggi del suo documentario Sacro Gra, Leone d'Oro, l'ultima mostra del cinema di Venezia, in uscita oggi giovedì 19 settembre. Probabilmente, se ci riusciamo, ne parleremo con lui la settimana prossima, quindi giovedì prossimo. È tutto per Visionari di questa settimana, l'appuntamento è giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 19 settembre, le nostre indicazioni, suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il cinema sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni, e poi il link per ascoltare la puntata precedente e quelle del 2013 e del 2012. C'è la pagina Facebook di Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. È tutto, buon proseguimento.